pieno di, indovinano un po' di chi. Sono tre col bianco mantello, l'immacolato agnello, sventolando il grande cappello, ci cantano così. Siamo tre, tre guerrieri noi siamo, e la pace del mondo portiamo, noi siamo i cadetti di Guascogna, veniamo dalla Spagna, andiamo a Bologna, la pace che tutto il mondo sogna, ognuno l'avrà se questa canzone con noi canterà. Noi siamo i cadetti di Guascogna, veniamo dalla Spagna, andiamo a Bologna, la pace che tutto il mondo sogna, ognuno l'avrà se questa canzone con noi canterà. E così, e così, sulle ali d'un motivetto si cantò, si cantò, e di guerra nessun parlò. Si riempì il più grosso cannone di dolce d'abbaglione, infingendovi un panettone, ognun dei tre cantò. Siamo guerrieri però preferiamo darci un bacio e poi darci la mano. Non siamo i cadetti di Guascogna, veniamo dalla Spagna, andiamo a Bologna, la pace che tutto il mondo sogna, ognuno l'avrà se questa canzone con noi canterà. Partire neppure si sogna, entro di cadetti di Guascogna, son fermi a Bologna perché a Bologna bene si sta. E con i cadetti di Guascogna, l'orchestra di Fragna, per tutti felicità.